Capitolo 2. Mia sorella Soshen. Settembre 1949. Quando era ormai buio, dopo circa 2 ore di attesa, giunse infine la macchina. L'autista spiegò che aveva nuovamente forato e che aveva dovuto fermarsi a cambiare la gomma. L'auto era una Ford, assai malandata, ma per Chongqing in quel momento, col comunismo alle porte, rappresentava la quintessenza del capitalismo. Ben pochi erano infatti quelli che possedevano una macchina, all'infuori dei diplomatici e dei più importanti funzionari governativi. La Ford era vecchia e l'autista nuovo, giunto da poco da Tianjin, arrogante nel suo dialetto strascicato e ben deciso a mantenere la sua superiorità su provinciali meno civilizzati di lui. Ma non appena sfoggiai il mio accento pechinese, si fece cortese e deferente. Il fiume scorreva plumbeo alla nostra destra mentre passavamo tra la polvere facendo largo uso del clacson. Nulla sembrava cambiato nonostante la vicinanza dei comunisti. Qua e là, lungo la strada, spiccavano ancora quegli agglomerati di capanne di legno dalle pareti sconnesse che avevo visto 8 anni prima, e nel cerchio rosso delle lampade a olio volti piatti e bidimensionali. Passivi al pari di ritratti, mangiavano, parlavano e ci fissavano come inebetiti. Sempre avanti, su per la vecchia strada serpeggiante, su per il sentiero a ciottoli dove sorge la nostra casa. La macchina sussultava come una barca in un mare tempestoso, beccheggiando e rollando. Un misterioso rastrellamento sotterraneo, che l'autista chiamava lavoro di fogna, aveva causato tale sconvolgimento stradale e continuammo ad avanzare imperterriti finché un urtone finale e uno spaventoso stridore di freni ci rivelò che eravamo giunti a destinazione. Ero a casa. La porta a borchie d'ottone con l'antiquato chiavistello di legno all'interno non era stata riverniciata da anni. Come ogni cosa, Chongqing era polverosa, decrepita e malconcia. Si aprì con il lungo e melodioso stridio proprio ad ogni cardine cinese, rivelando il cortile, limitato su 3 lati dalla veranda della casa. Poche lampade sparse, simili a lucciole, interrompevano, senza illuminarla, l'oscurità intorno a noi, dal profondo della quale udì la ben nota voce di terzo zio. «Sei qui!» disse. «Terzo zio, terza zia!» Due vaghe figure nella notte davanti alle quali mi inchinai. Sopraffatti da una semplice emozione, rimanemmo per qualche istante immobili, coi volti che formavano macchie bianche sospese a mezz'aria e gli abiti che si fondevano con l'oscurità. «Entra!» disse infine terzo zio. «Accendete le luci!» gridò poi, e la voce obbediente del servo ripeté l'ordine e tutte le luci si accesero. Allora entrammo in casa. Venne portato il tè, che sorseggiammo seduti in poltrone ricoperte da sottili stuoie di bambù a causa del caldo. Lo zio e la zia non erano affatto cambiati. «Gli anni non hanno infierito su di voi», dissi. «Non siete cambiati». «Il tuo viso è più pieno e più calmo», rispose lo zio. «Alcuni della famiglia pensavano che tutti quegli anni in Inghilterra ti avrebbero resa straniera, ma io sapevo che non poteva essere. Sei sempre la stessa». Terza zia sedeva ritta sulla sedia come era sua abitudine. Le gambe erano così corte che i piedini minuscoli e fasciati non toccavano il pavimento. Dalla lieve contrazione della fronte compresi che aveva una delle sue abituali emicranie, così le sedetti accanto per farle vento, come solevo fare molti anni prima negli afosi pomeriggi estivi, allorché andavamo a riscuotere gli affitti dei contadini. Le facevo vento per ore, con gesto molle e lento, muovendo appena il polso. E quella notte a Chongqing udivo ancora, fuori dalla porta, il silenzio di allora, rotto in lontananza dal frinire delle cicale. E accanto a noi, dalla breve nenia di una zanzara, infastidita dal fumo dei bastoncini d'incenso. Ma questo era avvenuto secoli addietro, quando ero giovane, inesperta e vulnerabile. Quando credevo ancora in quelle cose astratte che si chiamano felicità e infelicità. Anche terza zia doveva ricordare quei tempi, poiché mi posò affettuosamente la morbida mano sul braccio, ma l'amore che era in noi ci impediva di parlare. Lo zio ed io rinunciammo tacitamente ad interrogarci a vicenda. Le domande avrebbero soltanto portato descrizioni di fatti avvenuti e i fatti non avrebbero potuto darci la chiave dei nostri sentimenti. Così cercammo di capirci per istinto, tastando il terreno con frasi comuni. Non parlammo dei comunisti che potevano arrivare da un giorno all'altro, forse la prossima settimana, certamente entro il mese. A che serve dire ciò che è ovvio? Nella nostra famiglia feudale di banchieri e di proprietari terrieri speravamo naturalmente che i comunisti non ci avrebbero portato via ogni cosa, ma sapevamo che era inutile cercare di rovesciare il destino. Quanto al governo nazionalista, non potevamo aspettarci che vincesse. A Chongqing molti attendevano come noi, senza intraprendere nulla di nuovo, lasciando stagnare le cose, rimettendosi al destino ineluttabile. E così non parlammo di ciò che era attuale e avrebbe deciso della nostra vita, poiché vano è discutere di quello che è già segnato. Parlammo invece della famiglia, dei bambini che crescevano, del raccolto, dell'inondazione dell'anno precedente e dell'incendio. Nessuno di noi accennò a mia sorella Sushen. Poi cenammo. Terzo zio e terza zia, secondo fratello, quinto fratello con la moglie, prima e quarta sorella con i loro mariti, due o tre ragazzine lontane parenti in visita alla casa di Chongqing e alcuni degli ultimi bambini. I servi erano gli stessi, con qualche aggiunta per sostituire quelli che erano morti di vecchiaia o che vivevano i loro ultimi anni al villaggio natio, accanto alle tombe degli avi. Si erano ricordati dei piatti che preferivo e in tutti avevano messo il forte peperone rosso che mi piaceva tanto e che brucia il palato e la lingua. Eravamo felici di essere tutti insieme, prima di tutto perché così doveva essere e in secondo luogo perché lo eravamo veramente. Alla fine del pasto, mentre mangiavamo la minestra, terzo zio diede inizio alle ostilità. È davvero peccato che tua sorella, la nostra settima figlia, non apprezzi come noi tutti il peperone rosso, esclamò ad alta voce. Ha sempre avuto una digestione delicata? Risposi in tono indifferente. Terzo zio ed io amiamo scambiarci botte e frecciate di questo genere. Io non sono un medico occidentale, riprese terzo zio, ostentando una certa dignità. Ma il suo corpo è grande e forte, più grosso del tuo, e non la ritengo più delicata di quanto sia concesso ad una donna di esserlo. È diversa da noi, osservò secondo fratello. Si direbbe quasi una straniera. Secondo fratello era sempre stato un giovane impulsivo, e essendo mio cugino maggiore, era il solo cui fosse concesso esprimere un'opinione su persone più giovani di me. La sua bambina deve essere stata molto ammalata, dissi. Quella femminuccia è nata debole, disse terzo zio. Liu Sao, la vecchia servente, riempì nuovamente la mia tazza e ci ingolfammo in una discussione sui vari tipi di tè che diede modo a secondo fratello, che sapeva di avermi ferito, di lodare il mio gusto eccellente in materia. Non era vero, ma accettai il complimento per fargli capire che mi aveva addolorato. Infine, mentre ci venivano portati gli asciugamani caldi per asciugarci il viso, terzo zio dichiarò che era quasi mezzanotte e che dovevo essere stanca. No, non sono molto stanca, risposi con una certa fermezza. Ora andrò a salutare mia sorella. Terzo zio non sollevò obiezioni. Piccolo Liu ti farà luce, disse. Piccolo Liu era figlio di Lao Liu, marito di Liu Sao. Lao Liu era stato il servo personale di terzo zio e si era ormai ritirato al villaggio a sputare in pace quello che era rimasto dei suoi polmoni. Piccolo Liu, che al tempo della mia partenza era un mocciosetto sudicio di 8 anni, era diventato un giovane snello e agile, con gambe muscolose, un viso liscio e intelligente e capelli meravigliosamente lucidi. Il profumo di lavanda della brillantina che usava si sentiva a 5 metri di distanza. Indossava calzoncini cachi e camicia azzurra e portava allacciato alla vita un ordigno imponente che risultò essere l'ultimo modello di torcia elettrica. Come molti della giovane generazione, appariva efficiente e dava l'impressione di saper maneggiare macchine di ogni genere, nuotare e giocare a palla al cesto senza avere con questo perduto la capacità di scrivere una bella lettera e di tenere la lingua a posto davanti agli anziani assai meno esperti di lui. mi fece luce, fino al grande isolato in fondo alla strada, sede della società straniera dove mia sorella Sushen lavorava e dove era anche andata ad abitare. Il portiere sedeva sulla soglia a godersi l'aria fresca, fumando la sua lunghissima pipa di bambù con fornelletto di rame. Il cancello, verniciato di fresco, portava una grande targa di ottone col nome della ditta straniera. Mrs. Chang è in casa, annunciò il portiere rispondendo alla domanda di piccolo Liu. Veniamo dal palazzo degli Han, spiegò allora solennemente piccolo Liu. Terza giovane signora è arrivata e desidera vedere sua sorella, Mrs. Chang. Il portiere era intelligente e per nulla irritabile e scontroso, come lo sono spesso i servi di stranieri verso i loro compatrioti. Forse si rendeva conto che non tirava un vento molto favorevole per lui. Si alzò e mi si inchinò rispettosamente. Vado subito ad annunciarvi, disse. Entrate, vi prego. Purtroppo questi non sono che uffici e la sala di aspetto è chiusa a quest'ora, ma il giardino è fresco e piacevole. Vogliate scusarmi, dissi a mia volta. Sarà piacevole attendere in giardino. Molte grazie. Seguii con lo sguardo la sua schiena che venne bruscamente inghiottita dall'oscurità e compresi che anch'egli sapeva. Tutti i servi parlano. E mia sorella aveva perduto ogni diritto al loro rispetto, andando a vivere per conto suo in una casa straniera a soli 20 metri dalla propria famiglia. Inghiottii amaro. Sentivo profondamente la vergogna della famiglia e mi schieravo dalla sua parte contro Su Shen. In quel momento ero completamente cinese, antiquata e convenzionale fino al midollo. Spesso la mia personalità così complessa mi fa paura. Non è facile essere tante persone diverse in una sola, con tanti sentimenti contrastanti e ugualmente importanti, con tanti affetti, idee, slanci e timori, cosciente di tante delicate diversità di riserbo e di tante sfumature di fraseologia nell'espressione di uno stato d'animo analogo in tre lingue diverse, sempre così sensibile alle sottigliezze di significato. Altri si trovano a volte a dover scegliere fra due modi di agire, io invece mi trovo a dover scegliere fra almeno due mondi implicanti diversi modi di vivere. E mentre attendevo nel giardino, fragrante nella morbida notte, udii nuovamente la voce di Mark, chiara e tenera e lieve. Il tuo io multiplo, non so mai quale dei tuoi molti io troverò rivedendoti. Continua ad essere imperscrutabile ed io continuerò ad essere trasparente. Chi mi avrebbe mai più scoperta con tanta facilità, accettata così completamente? Gli avrei aperto tutti i miei mondi, le mille maniere di guardare un'unica cosa, la sfaccettata rifrazione ad arcobaleno che dona magico splendore ad ogni frammento di vita. Così, se uno dei nostri mondi fosse stato invaso dai mediocri, che sfregiano e distruggono nel nome della realtà, avremmo potuto rifugiarci in un altro, rimanendo sempre noi stessi e non mai condannati, come molti, ad avvilire l'anima in schiavitù e ad unirsi al branco urlante. Attendevo nel giardino, ormai serena e traboccante di tenerezza, sognando il momento in cui avrei presentato Mark a terzo zio, sorridendo al pensiero di come si sarebbero inchinati e di come sarebbero andati d'accordo, e pregustando la gioia di salire con Mark sul Monte Omei e di visitare con lui tutti i ristoranti che conoscevo. Bruscamente venne riportata la realtà dal ritorno del portiere che trascinava sull'erba la sua lunga pipa. La signora dorme e dice che non potrà ricevere sua sorella fino a domani mattina, annunciò. Evidentemente Su Shen aveva voluto usarmi una cortesia. Era mezzanotte, e cioè troppo tardi per fare una visita, secondo le usanze occidentali, ma ella sapeva del mio arrivo. Inoltre era più giovane di me e avrebbe dovuto darmi il benvenuto a qualsiasi ora. In Cina non esistono ore stabilite per far visite. Spesso mi era capitato di dover scendere dal letto per ricevere amici che non avevano sonno. Riflettei un istante. Dovevo ristabilire la mia già scossa dignità con un gesto di indifferenza e andarmene? Sarebbe certo stata la cosa migliore, o avrei dovuto insistere. Piccolo Liu e il portiere attendevano la mia decisione. Dato che ognuno di noi passa continuamente da uno stato d'animo all'altro e ciò influisce sulle nostre azioni. Non ho mai potuto capire perché non si debba accettare di fare il male come il bene e con altrettanta chiarezza di idee. Non mi fido in generale dei filantropi e dei benefattori di professione. Credo nei rapporti col nostro prossimo, nella devozione agli amici, nella fedeltà ai propri principi e nella ricerca dell'assoluto in noi stessi, e non della perfezione da imporre agli altri. Sono feudale e taoista ed il mio dispotismo è illuminato perché sono medico. Bisogna imporsi sulla volontà del malato e tutto il resto è ipocrisia. I medici fanno ampio uso del loro potere e ne godono enormemente. Maestosi nei loro camici bianchi al pari di profeti, con lo stetoscopio intorno al collo quale emblema della loro sapienza magica, si chinano sui pazienti che giacciono impotenti nelle lunghe file di letti. Con un gesto delle loro mani da taumaturgo ridonano la vita. Il potere di fare del bene supremo ed orgiastico è quello che più corrompe l'anima, poiché è assai facile illudersi di essere buoni. E così, pur sapendo di avere torto nel voler forzare la volontà di un'altra persona, senza alcuna scusante, dissi: «Dite a Mrs. Chang che la vedrò subito». Il bungalow, dove Sushen abitava, era in fondo al giardino. E attraversandolo compresi dall'odore che l'erba era stata tagliata come si usa nei giardini inglesi. Davanti alla porta c'era un cespuglio carico di fiori profumati a grappoli. Il portiere mi fece passare in una stanza appena illuminata da un'antiquata lampada a olio posta sul tavolo, e dalla porta di fronte entrò subito mia sorella in veste da camera, coi capelli stretti in due trecce puntate alte sul capo. La sua voce era bassa e sprezzante, carica di odio represso. Aveva molto sofferto, rendendosene conto minuto per minuto e sommando ogni sofferenza per ricavarne un totale. Non avremmo potuto vederci domani? No, risposi. Sentivo il suo disprezzo, forse meritato. Dovevo vederti stasera. Sia l'aereo che la macchina erano in ritardo e abbiamo cenato molto tardi. E così sei venuta a svegliare me e la piccola a quest'ora. Sì. Preferisco non attendere oltre a chiarire le cose fra di noi. Hai rovinato tutto come al solito. A causa tua verrò uccisa quando arriveranno i comunisti, io e la mia bambina. Non capisci? Sono 15 anni che non ci vediamo. Non ti conosco, non so nemmeno esattamente che ti è accaduto. Sono al corrente di alcuni fatti, ma non del loro significato. Ti ho scritto, riferendomi unicamente ai fatti, che la famiglia maltrattava te e la bambina e che questa era molto ammalata. È indubbiamente accaduto qualcosa di grave, ma non potevo capire prima di vederti. Racconta, ti prego. Per causa tua non posso andarmene a Hong Kong. Terzo zio non vuole darmi la mia carta di residenza a Chongqing senza il tuo consenso e la carta è indispensabile per avere il biglietto dell'aereo. Sono arcistufa di Chongqing con tutta la sua sporcizia e odio la famiglia. Presto arriveranno i comunisti e molti partono per l'America. Sono sicura che la famiglia si sta preparando a partire e che ha intenzione di abbandonarmi qui con la bambina. Hanno già cercato di ucciderla perché è soltanto una femmina. E ora che ho lavorato per una società straniera, i comunisti mi metteranno in un campo di concentramento o mi fucileranno per tradimento. Non essere ridicola, esclamai. Ma effettivamente io non avevo pensato a tutto questo. Era vero che molti fuggivano. Hong Kong era piena di profughi, di gente presa dal panico, e l'America costituiva la meta di coloro che disponevano di sufficiente denaro per andarsene più lontano. Non avevo compreso, mia sorella. La famiglia non ha nessuna intenzione di fuggire, le dissi. E anch'io voglio ritornare in Cina. La politica è come una nube che passa. Quello che importa è il lavoro da fare. Ah, potresti benissimo essere comunista anche tu, ribatté Sushen. Sei sempre stata diversa dagli altri, ma io voglio evadere, voglio vivere, voglio andare in America. Mentre l'ascoltavo, provai la strana sensazione di ringiovanire. Alzai la luce della lampada per vederla bene in volto e potei ammirare la bella fronte larga e liscia, con l'attaccatura dei capelli neri quanto l'ala di un corvo, le lunghe sopracciglia nerissime, finemente arcuate, i grandi occhi dolci dal bianco chiaro come finissima porcellana. Su Shen aveva Il naso diritto e ben formato, senza quella crudele curva delle narici che terzo zio ed io dobbiamo aver ereditato da qualche antenato predone e certamente criminale. Il naso di Suscena era gentile e la sua bocca ampia e generosa, morbida sui denti perfetti. La curva delle sue labbra non recava traccia di quella piega volitiva e autoritaria che segna la bocca di quarto e di quinto fratello. Mi resi finalmente conto che ella era buona, gentile e tenera, fatta per l'amore, per una vita normale con un brav'uomo e molti bambini. Non come me, dura, insensibile e selvaggiamente viva ora che Marca mi aveva richiamata alla vita. Suscena era una donna che aveva bisogno di cure e di affetto. Non c'era da meravigliarsi che terzo zio non avesse simpatia per lei e che lei lo odiasse. Mentre la guardavo, scomparvero le sottili rughe che il dolore aveva scavato fra le sue sopracciglia, le ombre sulle sue belle guance, la piega amara delle labbra, e mi trovai nuovamente di fronte alla bella bambina che una notte a Pechino, 25 anni prima, ero rimasta a lungo a contemplare, il cuore gonfio di tenerezza, mentre dormiva sotto la sua coperta imbottita nel lettino accanto al mio. Ma ella non l'aveva mai saputo, poiché anche da bambina avevo sempre avuto cura di rivelare solo il mio lato collerico ed insensibile. Poco per volta il mio risentimento verso di lei svanì. E intuendo, senza rendersene conto, il mio mutato stato d'animo, Sushen riacquistò quella sicurezza e quel senso di superiorità che aveva sempre dimostrato nei riguardi del brutto anatroccolo che io ero sempre stata. Come quando ero bambina, mi trovai a lottare disperatamente contro il disprezzo, contro l'imposizione di un punto di vista che non era il mio, contro il presupposto di una superiorità immeritata. «Sei brutta!» mi avevano detto da bambina. E con queste due semplici parole mia madre e Sushen mi avevano respinta dal loro universo femminile. Per questo, durante la mia intera giovinezza, avevo cercato disperatamente di aprirmi altri mondi, dato che il solo mondo che avesse valore ai loro occhi, quello della bellezza personale, mi era stato negato. Ma ora, per la prima volta in vita mia, un uomo mi aveva trovata bella. E me lo aveva detto, e aveva cercato di convincermene. Ora che mi rimaneva così poca bellezza da donargli. E col pensiero di Mark e delle sue braccia intorno a me, turbata dai ricordi che facevano fremere il mio corpo di gioia, mi dissi: Non lasciarti sopraffare, sei bella ora, non devi più subire prepotenze. Ricorda quello che è accaduto e pensa che ben pochi avrebbero potuto sopravvivere ad una simile prova. Hai saputo mutare in forza la tua debolezza. Ora ti consiglio di tirarmi fuori dal guaio in cui mi hai cacciata e di fare in modo che possa andarmene. Disse Sushen con arroganza incosciente. Adesso vado a dormire, ci vedremo domani. Ritornai dalla famiglia, risalendo i gradini della veranda. Tutti erano alzati ad aspettarmi. Terzo zio, terza zia e tutti i miei numerosi cugini. Terza zia mi versò una tazza di tè speciale e terzo zio salì in camera mia per mettere sul comodino con le sue mani un orologio che riposava da anni in un armadio. E che era stato ricaricato appositamente per me. Mi sentivo circondata da un affetto profondo, anche se poco espansivo, e schivo da ogni manifestazione esteriore. Mi volevano bene e mi confortavano. Mi narrarono storie divertenti, così come Mark aveva fatto a Macao, stringendomi tanto dolcemente fra le sue braccia da farmi dimenticare di essere a letto con lui. La storia che mi divertì maggiormente fu quella del cane di terzo zio. Avrebbe dovuto fare la guardia alla casa, ma una notte vennero i ladri a rubare le nuove coperte imbottite e il cane li trovò tanto simpatici che se ne andò con loro, senza dare il minimo segnale d'allarme. E così, sebbene mi rendessi conto che in certo qual modo temevano il mio giudizio su di loro nei riguardi di mia sorella, ricambiai con gioia il loro affetto. E mi addormentai ridendo per timore di venire sopraffatta da lacrime di stanchezza e di amore.